Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi la definizione uomo qualunque è una definizione fortemente riduttiva. Quello è un uomo qualunque, uno qualsiasi, uno del quale non è il caso di preoccuparsi. Addirittura, se una persona viene accusata di qualunquismo, le cose peggiorano ulteriormente. Il termine è proprio dispregiativo. E un qualunquista è uno al quale non interessa niente di niente, uno a cui va bene tutto. E nel corso del tempo il termine qualunquista è stato traviato nella sua stessa natura, perché non era nato così, anzi era proprio l'opposto. L'uomo qualunque, U e Q maiuscole, era per il suo creatore, perché c'è stato qualcuno che l'uomo qualunque l'ha inventato come definizione, per il suo creatore era qualcuno di molto difficile da accontentare, uno a cui non andava bene nulla, uno che diceva con convinzione: abbasso tutti, abbasso tutto. Il creatore di questo uomo qualunque, una specie di proto-anarchico, è stato un personaggio che fu molto importante nella storia politica del nostro paese, uno dei fondatori della nostra Repubblica, anche se di lui poi è stato detto qualsiasi cosa, è stato detto di tutto, il peggio di tutto. L'hanno snaturato nella sua essenza di contestatore, lo hanno messo a tacere perché faceva paura alla classe governante dell'epoca. Bene, il suo seme di scontento è rimasto, rispunta ciclicamente in forme diverse, anche in fazioni politiche opposte, per dare voce ai propri sentimenti di frustrazione, di scontento nei confronti dei politici professionisti. In fondo la cosiddetta casta è proprio ciò che si contrappone al pensiero dell'uomo di cui stiamo per parlare oggi, che era uno che auspicava un vento di rinnovamento. Oggi raccontiamo la sua storia, il padre dell'uomo qualunque, un personaggio peraltro particolarissimo, divertente, sempre sopra le righe, anticonformista, pirotecnico, il giornalista e commediografo napoletano Guglielmo Giannini. Lui si presentava così: io sono quello che il 18 giugno del 1940, convinto di avere 12 milioni di baionette, la flotta sottomarina più potente del mondo, l'aviazione capace di oscurare il sole, disse: beh, ormai ci siamo, sbrighiamoci, sistemiamo il mondo e mettiamoci a lavorare. Io sono quello che pochi giorni dopo, quando la battaglia delle Alpi dimostrò che non era vero niente, disse: ma cosa fa il re? Io sono quello che disse: ma come? Badoglio ha permesso questo? Io sono quello che ha venduto tutto per comprare il poco che ha potuto. Io sono quello che non crede più a niente e a nessuno. Io sono l'uomo qualunque. Vedete, c'è poesia, antropologia e una acuta diagnosi politica in queste parole. Insomma, è tutto tranne che un uomo qualunque, perché Guglielmo Giannini era un uomo amabile, irruento, geniale, eccentrico, scriveva benissimo, anche se aveva solo la quinta elementare, parlava quattro lingue, suonava il piano, la chitarra, il mandolino, ha composto canzoni che sono diventate dei classici, è stato regista di cinema, ha firmato 54 commedie, tutte rappresentate interpretate da attori famosissimi, è stato un giornalista, ha fondato un settimanale, un partito, è stato un parlamentare. Insomma, sicuramente tutto tranne che un uomo qualunque. Guglielmo Giannini nasce il 14 ottobre del 1891 a Pozzuoli, cresce a Napoli. La sua è una famiglia della media borghesia, lui potrebbe studiare, però non ne ha voglia, abbandona la scuola, va addirittura a fare il muratore, poi il commesso, però sa scrivere bene, molto bene, inizia a lavorare in un giornale satirico, viaggia, si appassiona a un genere a quei tempi più in voga all'estero che da noi, cioè i romanzi gialli, inizia a scrivere dei copioni, alcune sue commedie gialle avranno grande successo, come La sera del sabato, che nel 66 diventerà anche un bellissimo sceneggiato Rai, diretto dal mitico Anton Giulio Maiano, interpretato da Aldo Giuffrè. Voi pensate che... Oh, amico mio, che sono 2 ore che sto pensando. Ehi, onesto. Va, corri al telefono all'avvocato, vedi se è tornato. Mamma mia, ma si trovano i tatuaggi, sapete? Ma quale disastro! È stato un equivoco, questo è stato. E vabbè, il vestito sporco di sangue, che significa? Io, voi, che chiunque si fosse accostato un secondo a che non disgraziato si va a sporcare con mano un gianghiero. Come? Un gianghiero, un macellaio. Madonna, mi sono 20 anni che ha parlato con me, ancora non mi siete imparato a parlare italiano. Pronto? Siete voi Savarese? Sì, sono io. Oh, scusate, io vi avevo pregato. Abbiamo telefonato a casa. Ma io non sto a casa mia, sto qua al bar. E come facevo a saperlo? E lo dovevate sapere, si capisce? Già, faccio l'indovino. Siete un cretino. Io? Sì, voi, voi, io e voi stiamo parlando. Non vi permetto. Giovino, che vengo là che ti do il capo in tuo telefono. No, no, no, io volevo... Ah, vabbè, adesso andiamo d'accordo, vi dovete calmare. Avete sentito, la commedia è in dialetto napoletano. Aldo Giuffrè, che è stato un grandissimo interprete del teatro napoletano. Guglielmo Giannini però scriveva principalmente in italiano, però ovviamente non disdegnava il dialetto e amava molto scherzare sulle sue origini partenopee, e ne parlava così. È terribile essere napoletano, dà un senso di sventura. Io che non posso dimenticare di esserlo, ogni tanto mi riprendo e mi umilio e cerco di farmi piccino. Poi, come accade in questi speciali momenti, mi credo di nuovo superiore a tutti e proclamo che solo la mia terra partorisce gente degna. Tutto il resto dell'umanità mi appare allora composto di stomachevoli burattini. Noi almeno abbiamo il pernacchio. Guglielmo Giannini è giovanissimo quando decide che però, oltre a scrivere commedie gialle, gli piace anche il cinema, ha una vera vocazione anche per il giornalismo. I suoi pensano che tanti interessi equivalgono a nessun interesse, a volte è così, invece lui li convince del contrario. Pensate che nel 1914 diventa il direttore della rivista L'Avanti Cinematografico e ha solo 23 anni. È un buon inizio che prelude a una vita piena di impegni, di interessi, la vita di un personaggio veramente poliedrico. Il falco e il gabbiano. Guglielmo Giannini, uno spirito libero, un anticonvenzionale. Lui ama la sua patria, però in un modo tutto suo. Intanto deve andare sotto le armi e partecipa a due guerre, la campagna di Libia e la prima guerra mondiale. Passa indenne, per fortuna, attraverso entrambi i conflitti e... appena terminata la Grande Guerra va a vivere a Roma perché ha deciso di diventare un commediografo professionista. In effetti ci riesce e per molti anni questa sarà la sua professione. Darà vita a un gran numero di commedie, soprattutto gialle, il suo genere preferito, l'abbiamo detto. Hanno grande successo, non so, Parole d'Onore nel 23, Il Castello di Bronzo nel 31, La Casa Stregata nel 34, Mani in Alto, Super Giallo del 36, Il Sole a Scacchi del 40. Sono solo alcune delle tante commedie che scrive e con le quali ottiene successo. Nel frattempo si sposa, ha tre figli, la bellissima Gloria, Yvonne, che diventerà una brava giornalista, e poi Mario, l'amatissimo figlio maschio. Diventa piuttosto famoso anche perché è un personaggio, un uomo imponente, alto, biondo, ha un'eleganza vistosa, sempre un monocolo, la sigaretta tra le labbra, una catenella che gli attraversa il panciotto per infilarsi in un taschino nel quale è nascosto un ciondolo che è a forma di pitale. Insomma, un uomo estroso e stravagante. Un Giannino degli anni 20 mi viene in mente. È un napoletano verace, ama circondarsi di amuleti, sfoggia un portachiavi che ha un fallo d'oro dotato di ali che getta con noncuranza sotto il naso delle signore della Roma Bene, come a dire a buon intenditor poche parole. Si racconta, a proposito di aneddoti del genere, che una volta gli venne presentato un giovanissimo Giovanni Spadolini, è ancora un ragazzino ma già noto per la sua immensa erudizione, e Spadolini gli snocciola un buon quarto d'ora di sapienza storica, al che Giannini gli tocca la guancia paffuta e gli dice: «Ne, Giuino, chiavam!» È una esortazione esplicita a occuparsi meno dei fatti della storia e più dei fatti della carne. Ama la bella vita, le belle donne, la buona cucina, è uno sperimentatore, si dedica al cinema, che è un'arte ancora nuova. Lui la reputa molto interessante, si costruisce addirittura una moviola. Poi sarà costretto a venderla durante la guerra per comprare zucchero e caffè alla Borsa Nera. Ma la passione del cinema ce l'ha. Nel 1943 firma la sceneggiatura e la regia di 4 opere, delle quali solo 2 hanno accesso alle sale cinematografiche, però entrambi sono dei gialli interpretati da un grandissimo Paolo Stoppa. 4 ragazzi sognano e Grattacieli. Ah sì, che stavolta devi darmi un bacio dove prima mi hai dato la schia. Ma perché sei così severa con me? Non sai che sono molto più ricco di Jim? Lasciatemi ricco, Jim! Jim! Che è Jim? Ma dov'è il signor Frank? Dov'è Jim? Emily, dove sei? Che Che volete la Evelyn? Ma niente! Giannini è un artista poliedrico, scrive, dirige film e si intende di tecnica cinematografica, però è anche un musicista. Il suo strumento è il mandolino, si cimenta nella composizione di canzoni con lo pseudonimo di Zorro. Nel 1941, dopo l'entrata in guerra, l'Opera Nazionale Dopo Lavoro, associazione che è istituita dal regime fascista con il compito di occuparsi del tempo libero dei lavoratori, diciamo un kral fascista, indice un concorso per la musica, per le canzoni patriottiche. Lui scrive una canzone, la canzone dei sommergibili, che viene musicata dal maestro Mario Ruccione, autore di canzoni tipo Faccetta Nera. Però questa canzone ha veramente un grande successo, non solo vince uno dei premi del concorso, ma diventa l'inno ufficiale dei sommergibilisti. Beh, diciamo che insomma il clima è proprio quello tipico degli inni fascisti di quegli anni, alla Faccetta Nera. Però comunque ancora oggi la canzone dei sommergibili di Guglielmo Giannini è parte del repertorio musicale ufficiale della banda della Marina Militare Italiana. Ha superato le barriere politiche, è un inno che esalta, commuove per la sua intensità. La cosa è strana che Giannini non è schierato politicamente in quei tempi, è interessato alla politica, però non è né fascista né antifascista. È un anarchico anomalo, un liberale che crede in una qualche forma di governo, anche se ancora non sa quale sia. Probabilmente sa più quello che non vuole rispetto a quello che vuole. Di certo non è un interventista, è contrario all'entrata in guerra dell'Italia e forse ha un tragico presentimento per quello che la Seconda Guerra Mondiale starà per portargli via, perché la tragedia della sua vita si compie proprio attorno alla guerra, perché il suo adorato figlio Mario, di soli 20 anni, rimane ucciso in guerra in un incidente perché è aviatore. Una meravigliosa creatura d'amore che cessò di vivere all'età di 21 anni, 11 mesi, 27 giorni, nel pieno della salute e della bellezza. Questo è quello che scrive Giannini di suo figlio, è un epitafio dove si concentra tutta la sofferenza, il dolore di un padre a cui viene strappato un affetto che non potrà mai essere dimenticato. La vita di Guglielmo Giannini si spezza in due, ci sarà un prima e un dopo la morte di Mario, per sempre. L'uccisione del figlio fa scattare in lui un odio indiscriminato per la classe politica e i suoi capi, senza distinzione di colore. A questo straziante episodio dedica il saggio La Folla, che verrà pubblicato nel 1946. Bisogna distruggere il mito del capo, dell'uomo provvidenziale, che opprime la folla anonima e la manda a morire in guerra solamente per soddisfare le proprie ambizioni. Ma la folla di oggi non è più il branco di disorientati che aveva bisogno di Prometeo per accendere il fuoco. Oggi che nella folla ci sono Einstein, Toscanini, Marie Curie, è assurdo scannarsi per eleggere un qualsiasi capo di Stato e quel migliaio di individui qualsiasi che costituiscono il suo contorno. Guglielmo Giannini inizia a formulare il suo pensiero. È un pensiero che nasce da una sua terribile tragedia personale, però poi inizia a camminare per strade diverse e si insinua lentamente nella complessa realtà italiana del primissimo dopoguerra, là dove si stanno formando i primordi di quei filoni della politica che porteranno alla creazione dei grandi partiti italiani, soprattutto dei due grandi blocchi, la DC di De Gasperi e il PC di Togliatti. Lui è un giornalista, è uno scrittore, ha umorismo di matrice partenopea, insomma si rende conto di avere molto da dire a quelli che come lui sono scontenti di tutto e di tutti e non si sentono rappresentati da nessuno, la gente della strada, la folla come amava definirla lui, insomma l'uomo qualunque. Tra poco vediamo come prosegue la sua avventura. Il falco e il gabbiano. Oggi il mondo della politica italiana ha decine di personaggi che rivendicano la loro vicinanza con la gente, il loro essere refrattari alle convenzioni del potere, da destra o da sinistra. Ci sono molti personaggi, diciamo, super rottamatori, che vogliono in qualche modo sentirsi vicini alle vere istanze, quelle lontane dal palazzo. Bene, il padre di tutti questi personaggi è Guglielmo Giannini, è il protagonista della nostra storia di oggi, un uomo eccentrico, un giornalista napoletano che poi è commediografo, regista di cinema, autore di canzoni, un grande comunicatore dalle idee liberarie e libertarie. È arrivato ad avere una grande notorietà negli anni 30 e 40 grazie alle sue opere teatrali, e poi inizia a interessarsi alla politica senza mai schierarsi con nessuna fazione. La sua vita è falciata da un'immensa tragedia che lo segna per sempre, la drammatica morte in guerra del figlio Mario, appena 21enne. Questo evento straziante che acuisce in lui le sue convinzioni, che lo vedono opposto ai regimi, ai partiti, alle caste. Come giornalista sente desiderio di dare voce all'uomo della strada, agli scontenti, agli sconfitti, agli insoddisfatti, a tutti quelli che si oppongono a una gestione tradizionale della cosa pubblica. Insomma, è l'antipolitica. Il nostro protagonista decide di fare qualcosa di concreto e il 27 dicembre del 44 fonda un nuovo settimanale che si chiamerà L'Uomo Qualunque. L'Uomo Qualunque costa 5 lire a Roma, 6 fuori città, è un settimanale, però ha il formato di un quotidiano, è stampato su carta giallo-grigia, inserito nella U maiuscola della parola uomo. Si vede un torchio che schiaccia una striminzita immagine di omuncolo, il simbolo della classe politica che opprime il piccolo borghese, appunto l'uomo qualunque, e sotto la testata c'è scritto "Abbasso tutti". E infine la presentazione, che tuona così: questo è il giornale dell'uomo qualunque, stufo di tutti, il cui solo ardente desiderio è che nessuno gli rompa le scatole. L'uomo qualunque ha un successo immediato. Le 25.000 copie stampate al mattino devono essere raddoppiate nel pomeriggio. Nel giro di poche settimane la tiratura diventa di 850.000 copie. Perché è un giornale che piace, piace il suo essere dalla parte della gente semplice, il suo essere irriverente. Piacciono le vignette sagaci disegnate da Giuseppe Russo in arte Girus, piace la vicinanza con quello che oggi si chiama il paese reale. Gli articoli scritti da Giannini dicono alla gente proprio quello che la gente vuole sentirsi dire. Poi lui ha uno spirito umoristico, madre inglese, matrice napoletana, insomma un humor che conquista in un attimo tutti gli italiani. Piacciono le storpiature che lui fa dei politici: Calamandrei diventa Caccamandrei, Salvatorelli diventa Servitorelli, Vinci Guerra diventa Perdi Guerra. I personaggi presi di mira compaiono in una vignetta che ha per titolo PDF, che sta per pezzo di fesso. Ma lui non fa solo satira, perché la sua è una vera e propria posizione politica. Si schiera apertamente contro qualsiasi ordine costituito, contro la Chiesa, contro i comunisti, contro gli antifascisti di professione. Viene accusato di essere criptofascista, viene chiesta la soppressione della testata, perché in Italia funziona così, la satira va bene fino a che la fanno quelli della nostra parte. E invece il giornale resta lì dov'è, anzi il successo è tale che Giannini annuncia: credo sia giunto il momento di dare una struttura non più soltanto giornalistica alla corrente dell'uomo qualunque, che il nostro giornale non ha creato, ma che ha innegabilmente rivelato. In un primo momento lui cerca di fare confluire questa sua adesione nel Partito Liberale Italiano, però l'opposizione di Benedetto Croce gli dà il via, e così il 18 febbraio del 46 nasce il nuovo partito di Giannini, il Fronte dell'Uomo Qualunque. I comunisti lo bollano subito come un subdolo tentativo di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, definendo Giannini un torbido giocoliere che tenta di riesumare il fascismo vestendolo da pagliaccio. E alle elezioni nazionali del 2 giugno il Fronte dell'Uomo Qualunque ha un successo straordinario, ottiene il 5,3 delle preferenze, il quinto partito nazionale, manda all'Assemblea Costituente 30 deputati, tra cui lo stesso Giannini. Il compito del gruppo parlamentare dell'Uomo Qualunque, eletto alla Costituente, è quello di dare allo Stato italiano una nuova Costituzione, che permetta l'istituzione di uno Stato basato sulla divisione dei tre poteri che lo costituiscono: potere legislativo, potere giudiziario, potere esecutivo, in modo da consentire la massima autorità al potere esecutivo nella massima libertà del libero cittadino. Beh, praticamente precedeva di 70 anni i temi di cui si parla oggi, no? I poteri che si rincorrono e si intersecano, il potere legislativo che cerca di resistere all'esuberanza del potere esecutivo e soprattutto, e l'abbiamo visto negli ultimi anni, il potere giudiziario che è, come dire, deborda attraverso varie derive e quindi a un certo punto il potere giudiziario che si arroga il diritto di decidere i destini del paese. Insomma, il fronte dell'uomo qualunque concepisce uno Stato non politico ma amministrativo senza alcuna base ideologica. E secondo Giannini, per governare basta un buon ragioniere che entra in carica il 1 gennaio e se ne vada il 31 dicembre e che non sia rieleggibile per nessuna ragione. Propugna la lotta al comunismo e al capitalismo delle grandi imprese, la limitazione del prelievo fiscale, la negazione della presenza dello Stato nella vita sociale del paese. Sono ovviamente delle idee rivoluzionarie che vanno contro gli interessi dei partiti. Giannini viene attaccato su diversi fronti, è un guastafeste e rischia di interrompere il gettarsi di tutti addosso alla torta, cerca alleanze con varie fazioni, fondamentalmente viene affossato dalla Democrazia Cristiana. Alle elezioni successive del 48 praticamente il suo partito si scioglie, Giannini abbandona la politica per proseguire nella sua carriera di commediografo fino alla morte, avvenuta il 10 ottobre del 60, ma la sua eredità è rimasta nel panorama politico italiano. Ogni tanto nascono nuovi fenomeni che si possono avvicinare a lui, lo abbiamo detto prima. Per esempio, c'è chi vede una similitudine tra il partito dell'uomo qualunque di allora e i grillini di oggi. Ascoltiamo Enrico Vaime, scrittore e autore televisivo. È chiaro, ma è anche facile per quelli che hanno una certa età ricordare il fenomeno dell'uomo qualunque. Il qualunquismo dell'immediato dopoguerra fu un fenomeno apparentabile o viceversa al grillismo, e cioè un movimento faceva capo a un personaggio eccentrico, Guglielmo Giannini, un giornalista, autore di teatro e paroliere brillante, spregiudicato nel linguaggio e negli atteggiamenti, non un ideologo certamente. Riuscì a sconvolgere, si inserì con un grande orecchio da uomo di teatro qual era, si inserì in un'atmosfera che aveva bisogno di questi, dei toni eclatanti, di quella retorica che poi è tornata con Grillo dai toni apoplettici, piena di sudore e di esagerazione, di parole grosse, di parole forti. Guglielmo Giannini reintrodusse la parola Zebedei che sconvolse i nostri nonni, anche i nostri padri. È chiaro che Togliatti e Andreotti hanno un po' paura che qualcuno si voglia sedere al tavolo da pranzo e così definiscono Giannini con disprezzo il commediografo. Eppure lui ha avuto un grande peso nella storia del nostro paese. Si ritrova nei suoi archivi, c'è un'Italia simile a quella di oggi, c'è una corrispondenza privata intensa di Giannini, allora non c'erano le mail, insomma gente che denunciava lui, un ministro che magari aveva messo le mani su una minorenne o un presidente di commissione corrotto, insomma niente di nuovo. Però Giannini stava diventando e avrebbe potuto diventare, se non l'avessero fermato, il difensore d'ufficio dei deboli, quelli che non facevano parte della casta. Ma per parlare di Guglielmo Giannini e anche per conoscerlo meglio, anche da un punto di vista più privato, abbiamo con noi la nipote, che non è una persona qualsiasi, è Sabina Ciuffini, e tutta l'Italia la ricorda perché è stata, allora si diceva, valletta, l'assistente di Mike Buongiorno nello storico e mitico Rischiatutto per tutte le sue edizioni. Poi ha condotto con Mike anche un festival di Sanremo nel 75, e che però è sua nipote, la nipote del nostro protagonista. Buongiorno Sabina. Ciao, buongiorno. Buongiorno. come stai? Bene, bene. Stiamo raccontando questa interessante storia italiana che in qualche modo precorre un po' i tempi, però parto dal privato. Che ricordo hai tu come nipotina di tuo nonno? Lui è morto quando tu avevi solo 10 anni, quindi probabilmente sono più sensazioni. Guarda, nonno era una persona molto calda, molto profonda, era davvero un nonno da ricordare. Io mi ricordo che dai 7 ai 10 anni sono stata tutti i sabati e le domeniche nel suo studio a Piazza Argentina, dove aveva questo grande appartamento, e lui era nel suo studio e con questa penna in mano, perché allora appunto c'era solo la penna, penna, cuore e cervello, certo. E con questa penna in mano manteneva cioè, te lo dico un po' prosaicamente, insomma, un suolo di gente, e quindi scriveva commedie, canzoni, girava film, scriveva sceneggiature, e io mi ricordo che mi insegnava a fare la battutista, cioè io ero seduta sulla scrivania e facevamo i dialoghi delle sue commedie, ne ha scritte un centinaio. Però è chiaro che forse la cosa più affascinante è proprio quella cosa che lui mi fece una volta leggere, perché non parlava di politica, ormai era già abbastanza, come dire, disamorato e deluso, sì. Però mi ricordo che mi fece leggere questo pezzettino che era proprio sulla prima pagina del primo numero dell'Uomo Qualunque, che fu questa cosa folle, certo, questa esatto. E c'era scritto: io sono quello che ha perso un figlio in guerra, io sono quello che fa la cosa per l'acqua, io sono quello che si chiede, non so, Mussolini che fa, insomma, io sono l'uomo qualunque. Questa cosa qui è la cosa che veramente mi è rimasta, e per questo poi quando si parla di qualunquismo... E infatti stavo per chiederti proprio questo, cioè una delle eredità è questo termine che via via ha acquisito anche un'accezione non estremamente positiva, no? Il qualunquismo. E invece, ecco, dimmi cosa pensi di questo. Ma guarda, per tanti anni siamo tutti stati zitti perché la mia famiglia è divisa in estrema destra ed estrema sinistra, quindi per motivi diversi tutti si vergognavano stupidamente del nonno, pur volendogli bene. E questa è l'unica cosa che non ho mai perdonato tanto alla mia famiglia, perché io lo adoravo. E forse in maniera precoce, in maniera forse perché avevo parlato con lui di più degli altri, io invece sapevo che era un lavoro letterario il suo, lui era uno scrittore, e quindi per lui l'uomo qualunque era uno straordinario personaggio che chiaramente era preso dalla realtà. Certo. Lui si guardava in giro e vedeva l'uomo qualunque, e credo che ci fosse sotto anche una grande rabbia che lui in qualche modo elaborava ed esprimeva in modo letterario. E alla fine, se comunque è arrivato in edicola senza nessuna pubblicità, senza internet, senza niente, alla fine vendeva centinaia di migliaia di copie ogni settimana, un motivo forse, certo. Cioè qualche corda aveva toccato, sicuramente. E quindi rimango male quando con questa straordinaria operazione di marketing politico fatta giustamente da De Gasperi, Togliatti, grandissimi personaggi che mio nonno invitava a casa per dirgli: prendetevi il partito, fate qualcosa, io sono uno scrittore, sono un artista, sono un po' anarchico, non posso fare questo. Certo. Invece loro hanno preferito, come dire, annegarlo. Certo. E beh, qualunque, devo dire che non c'entra niente col qualunquismo, l'antipolitica, anzi è una cosa molto politica, perché io mi ricordo poi che leggevo delle analisi politiche del nonno, ed erano, non so, mi ricordo una frase che mitica, cioè voglio dire profetica. Lui disse: attenzione con tutti questi partiti, con tutti questi partiti saremo noi a pagare l'autista, la segretaria, la manicure. Purtroppo certo. Aveva ragione. Sì. Senti, ma quindi in qualche modo sicuramente il pensiero di tuo nonno è rimasto, anche perché ahimè le cose contro le quali lui combatteva si sono, se possibile, amplificate. Ma dal punto di vista di persone, tu vedi un erede di tuo nonno? Qualcuno ha parlato di Grillo, per esempio. Pensi che a tuo nonno piacerebbe Grillo? Ma comunque a mio nonno piaceva molto l'energia, quindi probabilmente in qualche modo, e soprattutto il coraggio. Devo dire che conosco Beppe da ragazzo, non so, lo reputo un uomo intelligente, pieno di immaginazione. Però ecco, devo anche raccontare che nonno sapeva 10 lingue, che era un autodidatta, che era figlio di una della prima giornalista donna irlandese e di un certo Federico Giannini, che era un, davvero un grande intellettuale napoletano, insomma, voglio dire, era abbastanza... Lo spessore, insomma... Adesso lo spessore non lo so, perché poi in realtà uno come Grillo, che è riuscito a mettere in piedi questa storia di spessore, mi sa che ce n'ha... Però ecco, il nonno aveva anche questa parte romantica, questa parte, come dire, artistica, questa grande classe, non so come dirtelo. Io sono un po' di parte, però. Grazie Sabina, sei stata gentilissima. Grazie. Grazie, grazie di aver parlato di nonno. Ciao. Ci sono storie a volte sconosciute, a volte storie che rischiano di essere dimenticate, di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, magari per volare in alto loro, ma anche a volte per cercare di difendere i diritti degli altri. Persone che comunque hanno provato, hanno tentato, hanno avuto cadute e risalite, ma hanno comunque volato, perché ciascuno di noi nella sua vita può cadere e può volare, l'importante è muoversi da dove siamo. Se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, fatelo, scrivete al falcoelgabiano@radio24.it, oppure scrivete al nostro sito. Ricordate che tramite il podcast potete riascoltare le puntate che vi siete perse, e poi sappiate che potete venirmi a cercare e venirci a cercare nei nostri e nei miei social. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.